La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, un buon sabato tutto di cinema da Franco D'Assisi. La nostra ora di cinema settimanale si occupa ed è occupata a sua volta oggi da Hunger Games, dal ritorno di un film molto atteso che sta già volando al botteghino, ma questo era anche abbastanza pronosticabile, ma poi anche da tanti altri film anche belli, anche importanti, che arrivano in sala questa settimana. Allora, non perdiamoci, andiamo subito a parlare di Hunger Games 2, Hunger Games, il canto della rivolta, parte 1, che il titolo, francamente, ci vuole una giornata di ferie per dirlo tutto, ma insomma siamo sostanzialmente giunti all'ultimo capitolo di una trilogia che però è diviso in due, e ormai questa è una cosa che si sta abbastanza, come dire, affermando nel mondo del cinema. Quando si arriva, è successo per Harry Potter, ricorderete, insomma, si divide in due l'ultimo capitolo della saga, due stagioni diverse, due film diversi, due incassi diversi in tutto il mondo, insomma, fa la differenza. Questo non per fare i puristi, però se andiamo poi ad analizzare questo tipo di situazioni nei film, questa cosa si sente molto. Si sente molto che sono dei mezzi film, sostanzialmente. E allora noi andiamo ad analizzare questo primo mezzo Hunger Games, il canto della rivolta, Mockingjay, come viene definito nel titolo originale. Ovviamente il cast è sempre quello importante degli altri capitoli: Jennifer Lawrence su tutti i protagonisti, e poi tra gli altri Woody Harrelson, il compianto Philip Seymour Hoffman, Julianne Moore, eccetera eccetera. E allora siamo al capitolo, ricorderete la seconda parte del film, che raccontava appunto i 75esimi Hunger Games, finiti sostanzialmente in strage. Il distretto 13 ospita quelli del distretto 12, che erano stati sconfitti, cacciati e distrutti. C'è un tema, sostanzialmente, non voglio spoilerare, c'è un tema, quello di cercare di far scoppiare la rivolta in tutti i distretti contro Capital City, che è il fortino dei cattivi, quelli che comandano, quelli che opprimono tutta la nazione. L'unica eroina che può essere un simbolo, che può scatenare questa rivolta, ovviamente, è Katniss, appunto interpretata da Jennifer Lawrence. Per riuscire a fare questo bisognerà far arrivare un messaggio video che appunto inneggi alla rivolta. Allora, noi sentiamo questa clip e poi ne parliamo. Non ho mai voluto tutto questo. Non volevo essere nei giochi. Volevo solo salvare mia sorella e che Pita vivesse. Signorina Everdeen, sono le cose che amiamo di più a distruggerci. E allora, il messaggio partirà attraverso reti informatiche piratate, arriverà dove dovrà arrivare, e la rivolta sarà lì dietro l'angolo. Dicevo, alcune valutazioni di carattere, diciamo, estetico e cinematografico. Beh, intanto, a mio modo di vedere, Hunger Games, la saga di Hunger Games, e questo capitolo lo conferma assolutamente, si conferma di essere la migliore in termini cinematografici fra le saghe, diciamo, popolari, soprattutto destinate a un pubblico giovane, in questo caso adolescenziale e anche post-adolescenziale. Questa è una cosa importante, perché in Hunger Games non è mai mancata la qualità registica, e qui Francis Lawrence, a mio modo di vedere, fa un lavoro straordinario. Non è mai mancata la qualità interpretativa, perché Jennifer Lawrence in questo momento forse a Hollywood è l'attrice numero uno, e lo è stato dall'inizio. Lei è partita con Hunger Games, ma anche con Un gelido inverno, con un successo che va su due binari, continua ad andare su binari. Lei continua a dare il suo volto intenso ai film d'autore, ai film più ruvidi, più difficili, ma poi continua a dare anche una qualità recitativa straordinaria a film di grande impatto popolare. E soprattutto in questo Hunger Games ci sono i silenzi, c'è una cupezza della situazione generale che di solito si cerca di evitare nelle grandi saghe, che invece qui è una presenza, insomma, un film importante. Spesso, peccato che a un certo punto si fermi a metà, nel senso che ci rendiamo conto che lì volevamo tutti andasse ancora avanti, e invece le cose si fermano. Ma insomma, avrete tempo l'anno prossimo per recuperare. Chiediamo un attimino cosa ne pensano invece i grandi fan, quelli che si sono letti più volte tutti i libri della saga di Hunger Games e adesso hanno già visto il nuovo film. Siamo in collegamento con Chiara Grollero del fan club di Hunger Games, che saluto. Ciao Chiara. Ciao, ciao a tutti. Allora, com'è la vostra valutazione? Avrete parlato un pochino dopo la visione del film? Sì, assolutamente. La nostra visione è molto positiva. Questo film è sicuramente più cupo rispetto allo scorso film La ragazza di fuoco, ma le tematiche si fanno sempre più mature e adulte. Il regista Francis Lawrence riesce proprio a cogliere quelli che sono stati i punti di forza del libro, ovvero affronta questa tematica della guerra, ma anche della propaganda politica. Infatti il film si concentra proprio sul ruolo che hanno Katniss e Peeta, perché da che nei precedenti film li abbiamo conosciuti come compagni, tributi del Distretto 12, ora si trovano ad affrontarsi da due schieramenti politici e militari completamente opposti. Il film, mi sento di consigliarlo non solo agli appassionati del libro, ma anche agli adulti e a coloro che il libro non hanno letto, perché ci sono dei momenti veramente intensi ed emozionanti, retti soprattutto da Jennifer Lawrence, che ancora una volta è straordinaria. Bene, bene. Allora, grazie a Chiara Grollero del fan club di Hunger Games. Li trovate ovviamente sui social network, eccetera, se poi volete dire la vostra per quel che concerne questo film. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea. Vi abbiamo annunciato la fine del mondo e infatti puntuali siamo qui a raccontarvela, perché è il tema di These Final Hours, un film di Zach Ilditch, cast non particolarmente conosciuto, diciamo, non di grandissimo impatto sulla locandina. Comunque Nathan Phillips, Anguri Rice e Jessica DeGu sono i tre protagonisti. La storia è semplice: un asteroide sta per arrivare ad abbattersi sulla Terra, cancellerà sostanzialmente, questo è certo, lo dicono tutti i TG, cancellerà la vita dalla faccia della Terra. La fine è prevista entro 12 ore, siamo a Perth in Australia, e allora in queste 12 ore succede di tutto, come potete immaginare. Siamo tutti condannati, quindi facciamo quello che vogliamo per queste 12 ore. C'è chi la prende piuttosto male, c'è chi invece organizza una grande festa per aspettare la fine del mondo in maniera, come dire, gioiosa, forse. Per raggiungere questa festa il protagonista James si mette in viaggio, durante il viaggio salverà una ragazzina, una bambina, dalle grinfie di due pedofili, perché in questo liberate le gabbie ovviamente c'è di tutto, e il film ci racconterà le ultime ore di questi due personaggi. Sarei diventato papà anch'io. Quella ragazza alla festa era incinta. Non lei. Un'altra. È più bella di quella lì. Sì. Allora come mai non sei con lei? Perché ho fatto un casino. Boris Solazzo in collegamento con noi. Ciao Boris. Buongiorno. Tu non stai aspettando la fine del mondo, no? Sei lì tranquillo. No, non sto aspettando la fine del mondo. Non credo che passerei il tempo come ce lo fanno vedere vari registi. Con un rave party, certo. Non mi sembra, esatto, proprio che avrei, certo, quel tipo di umore. Ma tra l'altro questo dell'ultimo giorno sulla Terra, delle ultime ore sulla Terra, è proprio quasi un filone di fantascienza che viene definita filosofica. Però ci sono stati, ricordo Last Day on Earth, ci sono stati diversi film negli anni e soprattutto diciamo negli ultimi 20 anni che hanno raccontato proprio questo, come ci porremmo di fronte a una situazione di questo tipo, apocalittica ma con una fine certa. Ecco, mi sembra che però sia un filone che spesso riesce ad aggiungere qualcosa, no? a dirci qualcosa in più, verosimile o meno che sia il contesto nel quale mettono i loro protagonisti. Beh, perché di sicuro è un filone che ti consente di tirar fuori quel po' di retorica che adesso forse sarebbe inaccettabile in qualsiasi altro film. Diciamo che di fronte alla fine del mondo puoi accettare che il protagonista possa vivere un finale come quello che vedrete e che noi abbiamo visto, e anche che la redenzione, la catarsi a cui può andare incontro possa essere magari più elementare che in altri film. Io ricordo, come dicevi anche tu, Last Day on Earth, che non è poi uscito, di Abel Ferrara, che andò a Venezia 3 anni fa, in cui Ferrara era sorprendentemente dolce rispetto ai suoi stilemi e delle sue abitudini, proprio perché comunque ti mette di fronte sia lo spettatore che il regista a un qualcosa di talmente grosso in cui c'è anche una sorta di sospensione dell'emotività in positivo. Poi di Spinal Awards, al di là delle scelte più o meno discutibili, che tra l'altro appunto i due protagonisti sviscerano nella clip che abbiamo sentito, è comunque un film molto interessante. È un film interessante perché sceglie di non prendere, e in questo è molto simile a quello di Ferrara, un centro narrativo speciale, eroico o comunque fuori dal comune, cioè prende un uomo normale, un uomo che fa determinate scelte, un uomo che non sempre fa la scelta giusta, con Rose, la piccola Rose, però per fortuna la fa, e niente diventa che un romanzo di formazione che durerà poche ore, perché appunto quello che formerà si dileguerà, si polverizzerà in pochissimo tempo, ma no, questo forse rende, anche grazie a una bella regia e una buona sceneggiatura, questo renderà ancora più interessante il film, perché non c'è nessun secondo fine, non c'è nessuna volontà realmente educativa, ma c'è la volontà di costruire comunque un rapporto, perché dovesse durare anche solo poche ore, comunque ne vale la pena. È, diciamo, in qualche modo la dimostrazione che c'è qualcosa di superiore nel confronto, nel contatto con le persone, che non conta il tempo, ma conta come questo avviene. E quindi alla fine è una bella favola, nonostante non abbia del tutto i toni della favola, e non a caso è stato infatti molto applaudito alla Kenzen scorsa. E infatti io ricordo anche, tra l'altro, ecco, mi veniva in mente mentre parlavi, Boris, un altro film che si chiamava semplicemente Last Night, era di Dan McKellar, un film canadese del 98, datevelo a ripescare se riuscite attraverso il home video, perché anche lì si raccontava un'ultima notte prima che tutto finisse. Beh, insomma, allora questo This Final Hours è al cinema. Noi adesso giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. Quando la sorte ti è contraria e hai mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e va a piangere sul... Beh, insomma, io direi che c'è già tutto, però diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che ha compiuto, come dire, un anniversario importante e che quindi viene rieditato in un video. Fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Nel frattempo andiamo avanti invece con i film della settimana e con... Boris Sollazzo, proviamo a parlare della commedia italiana della settimana, perché ormai siamo così, cioè ogni settimana ne arriva una, più o meno la banda di protagonisti attinge, diciamo, allo stesso mondo. Qui stiamo parlando di Scusate se esisto, di Riccardo Milani. I due protagonisti principali sono Paola Cortellesi e Raul Bova. Sentiamo. Quando sei arrivata? Mozi. Quando ne va? Stasera, zi, subito. Serena ha trovato un bel fidanzato. No. Hanno preso casa, vivono insieme. Mamma. Ma se sapessi quanto è bello, Clementine. Oh. Somiglia qui a Torre... Piatre. Giorgio Grumme. No, è più bello. Facci vedere il telefonino, allora. Facci vedere. Un'altra volta. Mi era promesso che mi si faceva vedere. E la madre, bella zia. Fammi vedere. Che dice? Dice che avrebbe piacere che tu lo portassi qui a farcelo conoscere. Paola Cortellesi alla presa con le zie in questa scena di Scusate se esisto, anche qui storia abbastanza semplice e serena, appunto. Paola Cortellesi, che arriva da un piccolo paese dell'Abruzzo, laureata, master, lingue straniere, lavora a Londra, ma vuole tornare in Italia. La nostalgia di casa è tanta, vuole tornare assolutamente, chiaramente arriva in Italia e non trova un lavoro che sia minimamente paragonabile a quello che aveva in Inghilterra, si arrabatta, ma a un certo punto conosce un uomo in un ristorante, un uomo bellissimo, fatale, che però a un certo punto scoprirà non essere, diciamo così, ma l'avete visto anche dai trailer in giro, non essere rispondente a livello di preferenze sessuali a quelle che erano le aspettative di Paola Cortellesi. Boris, parliamo di questo Scusate se esisto. A me Paola Cortellesi piace veramente tanto, perché a mio modo di vedere è una delle attrici che riesce in questo tipo di interpretazioni a come dire, cambiare un po' l'umore del film, a evitare che sia stereotipo da commedia italiana degli ultimi 5 anni, sempre tutta uguale, sempre con gli stessi attori, sempre con le stesse locandine. Lei è una che riesce di solito a fare questo salto di qualità. Capita anche stavolta? Sì, diciamo di sì, alla fine lei la promuove sempre. Mi verrebbe da dire con una battutaccia, scusate se resisto, perché pur essendo un grande appassionato delle commedie, ho l'impressione che ci sia ormai un'intollerabile reiterazione di schemi per quanto riguarda le commedie, nonostante siano bravi i nostri registi e siano bravi i nostri sceneggiatori e quindi le rendano sempre accettabili, poi non c'è mai la voglia di fare qualcosa in più. Lo vedremo anche nelle prossime settimane per quanto riguarda i film di Natale. Qui diciamo che è più facile dire le poche cose che cambiano rispetto al passato, al recente passato. In questa commedia è la presenza sicuramente di Riccardo Milani, che ha una gentilezza e una visione delle cose che è comunque abbastanza diversa. C'è appunto la Cortellesi, che in qualche modo, pur essendo un po' stata fagocitata dai ruoli che recentemente il cinema gli ha dato, ha comunque sempre quel garbo graffiante che dà un sapore ai suoi personaggi e non li rendono mai banali. Per il resto però il problema di Scusate se esisto è che guarda un po' come al solito è una commedia degli equivoci, guarda un po' come al solito si cerca di essere progressisti e poi è difficile farlo. Faccio un esempio: l'omosessualità di Raul Bova è un'omosessualità molto macchiettistica, quindi in certi momenti hai l'impressione di stare di fronte a una parodia di Saturno Contro. E interessante forse è la parte più contro il macismo, non riguardo al maschilismo insito in Italia, cioè lei è un architetto, è brevissima, ma essendo una donna viene sempre accantonata, decide di prendersi un alter ego che è proprio Raul Bova per presentare i suoi progetti e miracolosamente tutto cambia a livello lavorativo. Ci sono belle intuizioni secondo me, però in uno schema che sta diventando veramente piuttosto vecchiotto e che non sempre viene premiato ormai dal botteghino, cioè la commedia non è più il bancomat che era fino almeno un anno fa, e quindi forse si dovrebbe cominciare a pensare a qualcosa di diverso, anche perché i successi di Martone di Interstellar e di altri film, anche diciamo il successo molto più limitato di Boyhood, ci dicono che probabilmente il pubblico è più maturo di quello che i produttori credono. La rosa purpurea. Ce n'est pas l'animal qui est aveugle, mais l'homme aveuglé par la conscience et incapable de regarder le monde. Ce qui est dehors, écrivait Rilke. Le parole che sentite, no? questo bel francese stentoreo, arrivano dritte dritte da Adieu au langage, addio al linguaggio, il nuovo film di Jean-Luc Godard, ovvero di uno dei padri assoluti della Nouvelle Vague francese, un maestro del cinema, uno che ha cambiato il cinema quando era il momento di cambiarlo e quando era il suo momento, che continua a fare cinema, continua a giocare con la materia cinematografica, a mettere lì materiale anche spurio, anche grezzo, ad assemblarlo in film non film che magari non sono certo facili da seguire, ma che sono costantemente stimolanti, continuamente stimolanti per lo spettatore. Adieu Langage arriva, e questo è un bene in assoluto, nei cinema italiani, dura 70 minuti, difficile disegnarne una trama, è più facile mettere in fila i suoi protagonisti, una donna sposata, un uomo non sposato, un cane che parla, c'è le stagioni che passano, c'è insomma la materia. C'è la materia per raccontare appunto nell'intimo questo concetto che c'è già nel titolo, addio a un linguaggio, no? Cosa siamo diventati, cosa siamo oggi, abbiamo un linguaggio comune da spendere. Per raccontare l'esperienza cinema di Godard, perché come dicevo non è che vai, ti siedi e vedi la storia raccontata in maniera canonica, ma anche per rivendicare qualcosa che abbiamo appena finito di dire anche con Boris Sollazzo, cioè il tentativo ogni tanto di scuotersi dall'omologazione, ed è interessante che in modi diversi a scuoterci dall'omologazione ci pensino maestri di 80 anni, come può essere il caso di Godard o come può essere il caso di Olmi, di cui abbiamo parlato qualche settimana fa, sebbene con criteri e crismi diversi. Io per parlare di Adieu Langage ho voluto chiamare un amico, un grande critico cinematografico, che è Aldo Fittante, che è in collegamento con noi perché è un godardiano della prima ora, e quindi sarà assolutamente sincero nel farvi capire non tanto se, perché se la mia risposta è sì, andate al cinema a vederlo, ma come andare al cinema a vedere questo film. Allora Aldo, intanto buongiorno, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Come si va a vedere Adieu Langage di Jean-Luc Godard? Sì, allora, buongiorno a tutti. Ma dunque, prima di tutto vorrei premettere che io non sono un godardiano, più un godardista, insomma, se mi passi la provocazione, nel senso che sicuramente sono cresciuto, insomma, sono stato così un po' condizionato, diciamo, soprattutto all'inizio, quando mi sono accostato al cinema, dai suoi film, eccetera. Certamente esiste, sono d'accordo con chi ha scritto che esiste un cinema prima e dopo Godard, però appunto è interessante da un lato perché lui comunque propone sempre delle provocazioni dialettiche, linguistiche per l'appunto, eccetera, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, di diverso e di non omologato. Dall'altra parte io sono sempre un po' perplesso perché la sua filosofia di fondo è rasenta sempre un po' il nichilismo, no? E quindi paradossalmente lui volontariamente o meno, direttamente o indirettamente, un po' uccide il sogno di cui si nutre il cinema, no? Allora, dato che io di solito vado al cinema sostanzialmente per non dire solo per sognare, insomma, quindi questa roba qui è un po' disturbante. Come è disturbante la cosa secondo me più importante del suo nuovo film, cioè il fatto che sia proposto, sia stato pensato, girato, realizzato e quindi adesso viene visto in 3D, perché è un 3D sfrontato, disturbante, no? Molto di spalle, che invade proprio la sala, insomma, come se volesse sostituirsi agli spettatori. Ecco, questa secondo me è la provocazione più bella e più interessante del suo nuovo lavoro, perché sullo schermo noi vediamo tante cose, vediamo i film classici sullo sfondo, vediamo invece i personaggi che in primo piano usano continuamente lo smartphone, che forse è la nuova frontiera dell'immagine, no? Ecco, è un saggio in realtà, ecco, più che un film, è un saggio, una riflessione, diciamo, su dove sono andate a finire le immagini e dove sono in questo momento. E allora cercheremo di scoprirlo, cercate di scoprirlo insieme a Jean-Luc Godard in questo saggio, cioè roba per cinefili forti, insomma, mica paglia, sì. però insomma sì. È bene, a mio modo di vedere, è veramente bene che esista anche questa possibilità, perché è una possibilità che ormai nel mondo della distribuzione normale è lasciata solamente ai festival, e invece in sala queste cose non ci finiscono proprio più, e anche questa non ci sarebbe finita se non fosse filmata Godard. Attenzione, è chiaro che dietro c'è una valutazione anche di tipo commerciale, però insomma c'è, e allora è una possibilità quella di farsi sfidare anche da questa materia. Aldo, io ti ringrazio, voglio solo ricordare la tua pagina Facebook, la ricordo ai nostri amici della Rosa Purpura perché è molto molto divertente e sempre molto dissacrante, che si chiama Cattivissimo Ahimè, con la H in mezzo, Ahimè. Cercatela su Facebook, Cattivissimo Ahimè Aldo Fittante, o cercatela anche su Google, la trovate e leggerete queste note sempre molto caustiche di Aldo durante la settimana, che riguardano sempre il cinema ma un po' anche il mondo. Grazie Aldo, ci risentiamo. Grazie a voi e buon weekend a tutti. Giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Vorreste dire che io ho messo un cervello abnorme in un energumeno lungo 2 metri e 20 e largo come un armadio a due ante. E allora, che film è? Che film è? Scriveteci titolo del film, scriveteci vostro indirizzo, mi raccomando, alla Rosa Purpurea a @radio24.it, provate a vincere una delle due copie in Blu-ray che sveleremo la prossima settimana. Adesso invece sveliamo un altro film di quelli che escono questa settimana e come sempre vi mandiamo al cinema perché la Rosa Purpurea si ricorda sempre di voi. Allora, soprattutto se siete amici che stanno a Milano o a Roma, o comunque che possono andare al cinema a Milano o a Roma, ascoltate bene questo film che si intitola I toni dell'amore. Ascoltiamo la clip. Che cavolo fai, Vlad? Sto posando per il nuovo capolavoro di tuo zio. È troppo gay. Posare per un pittore non ha niente a che vedere con l'identità sessuale, Joey. Lo fa un sacco di gente. Non volevo offendere gli omosessuali, zio Ben. È soltanto stupido. Nessun problema, Vlad. Joey e io riusciamo sempre a comprenderci. Comunque come artista non vali granché. Joey. Cosa? So che non lo pensi. Sbagli, lo penso. Si trattava dei toni dell'amore, Love is Strange, questo è il titolo originale, film che esce appunto questa settimana, diretto da Ira Sachs, con un cast di attori ovviamente non più giovanissimi ma straordinari, come John Lithgow e Alfred Molina, ma anche come Marisa Tomei, per raccontare una storia di omosessualità, come dire, pacata, senza strepiti, ma proprio per questo ancora più profonda. La storia di Ben e George, due uomini che stanno a Manhattan, uno sui 70 anni, l'altro sui 60, vivono insieme da 40 anni, tutti lo sanno, uno lavora per una scuola cattolica e tutti sembrano accettare, amici, parenti, mondo del lavoro, ma quando arriva il momento in cui i due decidono di coronare con un matrimonio questa loro unione quarantennale, qualcosa si spezza, come se suggellare quel tipo di situazione facesse scoppiare una vera e propria rivoluzione. Un film raccontato con toni veramente delicati, ma una bellissima e intensissima storia con due attori straordinari. Boris, davvero un film da non perdere questo. No, assolutamente sì. Parlavamo prima, no, di come nella commedia italiana presentano gli omosessuali, dovrebbero andare a fare una lezione in generale guardando i toni dell'amore, perché poi il segreto è banalissimo: quando trovi un regista che vuole raccontare l'amore e poi incidentalmente si ritrova con due maturi signori, tra l'altro straordinari attori, quello deve fare, insomma, indipendentemente che siano due maschi, un uomo, una donna o un marziano e una terrestre. E il segreto è proprio quello: noi ci ritroviamo di fronte a una coppia che ha diviso tutto, ha convissuto per anni, che come spesso può accadere nel momento in cui anche in età molto matura trova, diciamo, una realtà, una situazione in cui tirare un bilancio, aiutati, anzi non aiutati, anche dalla crisi economica, può portare a una brusca fermata, un brusco stop. Anzi, brusco no, perché poi la forza di questo film di Sachs è proprio la gentilezza, la forza e la bellezza con cui vengono presentati tutti i problemi, perché loro avranno una peregrinazione presso amici e parenti, e quindi potranno vedere anche gli altri lati delle persone, gli altri lati dei problemi, compresi quelli della propria famiglia. È un spaccato di vita che ovviamente non siamo magari abituatissimi a vedere, perché non ci intrufoliamo nelle difficoltà delle coppie altrui, soprattutto nelle peregrinazioni anche fisiche che fanno, che però riesce a restituirci un ritratto di una coppia molto profondo e allo stesso tempo, come dicevi tu, delicato e anche ironico, ma anche duro, come abbiamo sentito nella clip. Non viene risparmiato assolutamente nulla. E quindi I toni dell'amore forse racconta proprio quello che il titolo italiano dice, cioè quanti toni, quante tonalità, quanti colori può avere l'amore, senza essere costretti necessariamente a dare quegli eccessi che spesso i sentimenti trovano al cinema. Merito secondo me molto degli attori, ma anche di un regista che ha trovato davvero un modo secondo me originale per raccontare qualcosa che invece di solito finisce sempre nello stereotipo. E allora, i toni dell'amore, Love is Strange, noi 5 coppie di nostri ascoltatori li mandiamo al cinema a vederlo, e quindi da questo momento chi ci scrive, i primi 5 che ci scrivono al 349-238-6666, un sms con il loro nome e la località dove vogliono andare a vedere il film, ricordo solo Milano o Roma sono i cinema che possono ospitare questa pellicola, ebbene scriveteci 349-238-6666, i primi 5 sms che arriveranno potranno vincere una coppia di biglietti a testa per andare a Milano-Roma a vedere I Toni dell'Amore, Love is Strange. Grazie Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana con tutte le novità al cinema. Alla prossima settimana e buon cinema. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, siamo alla quarta parte del nostro programma, dobbiamo parlare ancora di cinema in sala e agganciarci a un festival, perché fra i film che arrivano in sala in questo fine settimana c'è anche Diplomacy, firma importante quella di Volker Schlondorf che lo dirige, nel cast André Dussolier, tanto per dare un nome di riferimento, un fatto storico importante, 25 agosto 44, alleati che arrivano a Parigi, il generale tedesco che governa Parigi si prepara ad eseguire gli ordini del Führer, ovvero distruggere la città e fare terra bruciata. Qualcuno riuscirà a evitarlo ed è proprio la storia di Diplomacy. Ascoltiamo la clip, poi parliamo di questo film e del Festival di Torino. Cosa farebbe lei al mio posto? Come? Lei cosa farebbe al mio posto? Sarebbe pronto a sacrificare sua moglie e gli esseri che le sono più cari per una città che conosce appena? Mi dica. Aspetti. No, signore, ho bisogno della sua risposta e ne ho bisogno adesso. Che cosa farebbe lei al mio posto? Risponda, per favore. Risponda. Non lo so. E allora, questo è un passaggio del film Diplomacy nelle sale cinematografiche per chi ama il grande cinema storico, che è una parte, come dicevo, del Torino Film Festival che comincia proprio in queste ore ed è in collegamento con noi colei che è responsabile, insomma, responsabile in positivo di tutto questo ambaradan del Festival di Torino, di un programma sontuoso, come sempre, molto interessante. Emanuela Martini al telefono qui alla Rosa Purpurea. Ciao Emanuela. Buongiorno. Allora, raccontaci un po' un paio di motivi, a partire da Diplomacy, per, e anche di più, per venire al Festival di Torino. Beh, a partire da Diplomacy, che siccome tutti sappiamo come è andata a finire, visto che Parigi è ancora su, perché in realtà i tedeschi avevano nominato tutti naturalmente i monumenti più importanti a partire dal Louvre, e ciò nonostante si vive questo film come se fosse un thriller ed è molto curioso, cioè una sceneggiatura fantastica e una regia perfetta, perché tutto in una stanza in realtà, la maggior parte del film, e due attori strepitosi sono Dussolier e Nils Arestrup. Gli altri motivi, ci sono 197 film al festival, compresi ovviamente i cortometraggi e i 33 film della retrospettiva New Hollywood, con all'interno tra l'altro due film dell'autore che è morto ieri, Mike Nichols. Assolutamente, guarda, infatti hai fatto bene a citarlo, perché volevo dirti anche un grande omaggio a Mike Nichols, un grandissimo, che se n'è andato proprio in questi giorni. E noi proiettiamo il laureato, che va bene, è quello più noto e più ovvio, ma c'è un secondo film di Nichols dell'epoca, che è un film straordinario, rivisto oggi, di una modernità pazzesca, che è Conoscenza carnale. C'è un film veramente di una malinconia e di una freddezza rispetto ai sentimenti, che valeva allora e vale in parte anche oggi, alle difficoltà veramente dei sentimenti, alle difficoltà delle coppie. Ci sono tanti film attesi, per esempio, lo so, è il più atteso di tutti, Magic in the Moonlight, il nuovo film di Woody Allen. Ci sono tantissimi film sconosciuti che consiglio caldamente di andare a vedere. Assolutamente, poi questo è il compito di un festival, quello insomma anche di scoprire, oltre che di andare sui territori conosciuti. Insomma, un panorama come sempre molto variegato, le grandi retrospettive soprattutto sul cinema americano, che è un lavoro che proprio Emanuela Martini ha voluto fortemente a Torino, e poi tutta l'attualità del cinema più innovativo che si può avere. Grazie Emanuela, ovviamente avremo tempo, ovviamente, come dire, in questi giorni, di certo raccontare il Torino Film Festival, e quindi insomma in bocca al lupo per questa edizione. Crepi. Ed è il momento di risolvere il gioco della scorsa settimana. Ascoltiamo la traccia. Dobbiamo lavorare ancora parecchio sul tuo volo planato, amico. Sdentato. Cos'è? Adesso fai il broncio, bestiolina? E allora, si trattava di Dragon Trainer 2, uno dei film che hanno aperto questa stagione cinematografica, che arriva adesso in un video, e adesso vi parleremo del Blu-ray. Prima però il tempo di annunciare i vincitori, anzi le vincitrici: Laura Cappetta di Balzola, provincia di Alessandria, e Simonetta Masiero di Ferrara. Saranno loro a ricevere la copia in Blu-ray di questo film molto divertente, di cui vogliamo parlare con gli amici della redazione di Fil TV. Ed è con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo dell'episodio numero 2 della saga animata del giovane vichingo progressista che è un allenatore del drago sdentato. Un film che è veramente un surplus di spettacolo, con più draghi, avventure, divertimento, dialoghi sempre più spassosi, sequenze di volo veramente spettacolari, coreografie molto eleganti e anche tanta commozione rispetto al primo episodio. E soprattutto un 3D che in sala dava un'ampia profondità di schermo. Il tutto è da godere adesso in un Blu-ray ad altissima resa, confezionato con due dischi, con tantissimi extra, tra cui un documentario di lavorazione, un commento audio di produttore e regista e tantissimi approfondimenti su draghi e macchine da guerra, vi elencando. Insomma, se siete appassionati di vichinghi, di draghi o di animazione o di tutte e tre, questo è il film che fa per voi, veramente molto molto divertente. E allora andiamo avanti, perché questa settimana vi diamo tre segnalazioni della TV, perché c'è davvero tanta roba nel palinsesto della prossima settimana. Cominciamo con Argo, dirige il film Ben Affleck, 2012, e siamo in zona assolutamente spionistica, con la ricostruzione di una storia che ha tenuto il mondo col fiato sospeso, quella della irruzione all'ambasciata statunitense in Iran del 1979. Giulio. Sì, lunedì 24 novembre su Canale 5 alle 21.10, una importante prima TV, visto che il film ha vinto anche l'Oscar come miglior film, è la storia vera del Canadian Caper, l'operazione segreta congiunta tra Stati Uniti e Canada per risolvere la crisi degli ostaggi americani in Iran, un'operazione conclusa il 28 gennaio 1980 e risolta dalla CIA con un escamotage cinematografico, ovvero mandando sul posto una squadra che si finge una truppa al lavoro su un film. È un film come si faceva una volta, un congegno narrativo a orologeria e un thriller politico vintage e claustrofobico. È un film che intreccia ottimamente il gioco delle ombre politiche con quelle del cinema in un vertiginoso gioco degli equivoci. Un film assolutamente da vedere, soprattutto perché ce lo propongono in prima serata una volta ogni tanto, insomma. Ecco, sì, assolutamente un orario possibile, 21.10 su Canale 5, lunedì 24 novembre. E il 28 novembre, a mezzanotte e un quarto su Rai 2, venerdì, troviamo un altro capolavoro recente come Killer Joe. Killer Joe, anche questo presentato in prima TV, siamo nel Texas, in una misera e folle famiglia, e al figlio indebitato viene un'idea, convincere il padre ad ammazzare la madre affinché il premio dell'assicurazione vada alla sorellina e gli risolva i debiti. È la matrigna ad accettare al volo e il sicario sbirro corrotto, non potendo essere pagato in anticipo, si prende una garanzia decisamente inquietante, ovvero la sorellina. La tragedia incombe, ma non è solo quella pianificata. William Friedkin adatta dopo Bug, un altro testo del premio Pulitzer Tre Filezze, e gira un teatro degli orrori furibondo, un apocalisse che c'è già e sa di fritto, un film immorale e grottesco per tempi vili, veramente un grandissimo film con grandi interpretazioni su tutte, quella di Matthew McConaughey. Allora 28 novembre, Killer Joe a mezzanotte e un quarto su Rai 2. Grazie Giulio, appuntamento la prossima settimana. Ciao Franco, saluto agli ascoltatori. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, la sigla ci dice che è il momento di salutarci, e allora appuntamento a sabato prossimo, saremo in onda dalla salone, dal forum degli agenti di commercio, ma saremo in onda con la nostra Rosa Purpurea come sempre per stare insieme un'ora con il cinema. Un saluto da Franco D'Assisti.